un'avventura romantica in questo ciel di Lisbona, azzurro più d'ogni ciel. Ho sognato, ho vissuto, fu il cielo azzurro il mio cuore che m'ha fatto sognare l'amore. Tornar da te, oh mia romantica città, per rivedere il mio amor tra fiore e fior, a cuor, sognare. Io voglio ancora sognare in quell'azzurro chiarore luna che non so più scordare. Da te, oh mia romantica città, perché nel buio splendore ho perso il cuore per troppo amore. Baciare, io voglio ancora baciare il dolce amore d'un tempo che fu e non scordarti più. Un'avventura romantica in questo cielo.